Per tornare all'autista, chiese a Morel di fare in modo che Verduran non soltanto sostituissero il loro break con un'automobile, il che, data la generosità dei Verduran verso i fedeli, era relativamente facile, ma, cosa più difficile, il loro principale cocchiere, quel giovane sensibile incline ai più cupi pensieri, con lui l'autista. La faccenda fu sbrigata in pochi giorni nel seguente modo. Morel, per cominciare, aveva fatto derubare il cocchiere di tutto quanto gli era necessario per attaccare. Un giorno non trovava più il morso, un altro giorno il barbazzale. Altre volte a scomparire era il cuscino di cassetta e persino la frusta, la coperta, lo staffile, la spugna, la pelle di camoscio. Ma ogni volta se la cavò ricorrendo a qualche vicino. Solo che arrivava in ritardo, indisponendo il signor Verduran nei suoi confronti e precipitando egli stesso in un abisso di tristezza e di idee nere. L'autista, ansioso d'essere assunto, informò Morel che doveva tornare a Parigi. Occorreva un colpo definitivo. Morel persuase i domestici del signor Verduran che il giovane cocchiere s'apprestava, per sua stessa dichiarazione, a farli cadere in un tranello e si vantava di poterli sistemare tutte e sei insieme e spiegò loro che una cosa simile non potevano tollerarla. Lui personalmente non intendeva immischiarcisi, ma li avvertiva in modo che prendessero loro l'iniziativa. Fu deciso che, quando i Verduran e i loro amici fossero andati a passeggio, i domestici sarebbero piombati sul giovane facendo irruzione nella scuderia. Noterò qui, sebbene sia stata solo l'occasione di quanto sarebbe accaduto, ma perché più tardi mi sarei interessato ai personaggi, che quel giorno c'era, in villeggiatura dai Verduran, un amico cui i padroni di casa volevano far fare una gita a piedi prima della sua partenza, fissata per la sera stessa. Quando quel giorno ci incamminammo, mi sorprese molto che Morel, il quale partecipava a questa passeggiata con noi e doveva suonare il violino fra gli alberi, mi dicesse: «Sentite, mi fa male un braccio. Non voglio dirlo a Madame Verduran, ma pregatela di prendere con sé uno dei suoi domestici, per esempio Hausler, mi porterà gli strumenti». «Credo che un altro sarebbe più indicato», risposi. «Avranno bisogno di lui per il pranzo». Un'espressione di collera passò sul volto di Morel. «Ah no, non voglio affidare il mio violino al primo venuto». Capii più tardi la ragione di tale preferenza. Hausler era il fratello amatissimo del giovane cocchiere e se fosse rimasto a casa avrebbe potuto correre in suo aiuto. Durante la passeggiata, a voce abbastanza bassa perché il maggiore dei due Hausler non potesse sentirlo, «Ecco un bravo ragazzo», osservò Morel. «Del resto anche suo fratello lo è. Se non avesse quella sciagurata abitudine di bere...» «Come di bere?» lo interruppe Madame Verduran, sbiancando in volto all'idea che il suo cocchiere bevesse. «Non ve ne rendete conto? Mi dico sempre che è un miracolo se non gli sono mai capitati incidenti mentre portava voi. Ma perché? Porta altre persone? Basta vedere quante volte ha ribaltato. Oggi ha la faccia piena di ecchimosi. Non so come abbia fatto a non ammazzarsi. Ha spaccato le stanghe». «Non l'ho visto oggi», disse Madame Verduran, tremando al pensiero di ciò che sarebbe potuto succedere a lei. «Sono davvero preoccupata». Decise di abbreviare la passeggiata per tornare a casa. Morel scelse un'aria di Bach con infinite variazioni per farla durare. Appena tornata, la padrona accorse alla rimessa. Vide la stanga nuova e Hausler insanguinato. Stava per dirgli, senza alcun rimprovero, che non aveva più bisogno d'un cocchiere e mettergli in mano del denaro quando lui, non volendo accusare i compagni, alla cui animosità attribuiva retrospettivamente il furto quotidiano di tutte le selle, eccetera, e vedendo che la sua pazienza non lo portava ad altro che a farsi lasciare come morto sul pavimento, chiese di sua iniziativa d'andarsene, il che sistemò ogni cosa. L'autista fu assunto il giorno dopo e più tardi Madame Verdurin, che era stata costretta a prenderne un altro, rimase così soddisfatta di lui da raccomandarmelo calorosamente come persona d'assoluta fiducia. Io, che non sapevo nulla, lo presi a giornata a Parigi, ma ho anticipato anche troppo. Tutto ciò si ritroverà nella storia di Albertine. Per il momento siamo alla Raspellière, dove io ho pranzato per la prima volta con la mia amica e Charlus con Morel, preteso figlio di un amministratore che aveva un fisso di 30.000 franchi all'anno, carrozza propria e una quantità di maggiordomi subalterni, giardinieri, intendenti e fattori alle sue dipendenze. Ma, visto che ho tanto anticipato, non voglio lasciare il lettore con l'impressione, riguardo a Morel, di una malvagità assoluta. Era piuttosto una persona piena di contraddizioni, capace in certi giorni di autentica gentilezza. Naturalmente, fui molto stupito quando seppi che il cocchiere era stato messo alla porta, e ancor più quando riconobbi nel suo sostituto l'autista che aveva portato a spasso Albertine e me. Ma lui mi snocciolò una storia complicata, secondo la quale, tornato a Parigi, ne sarebbe stato richiamato per i Verdurin, e io non ne dubitai un solo istante. Il licenziamento del cocchiere spinse Morel a intrattenersi un po' con me, al fine di esprimermi la sua tristezza per la partenza di quel bravo ragazzo. Del resto, anche al di là dei momenti in cui ero solo e lui balzava alla lettera verso di me con effusioni di gioia, Morel, vedendo che tutti alla Raspellière mi facevano festa e conscio di escludersi volontariamente dalla familiarità con una persona diventata innocua per lui da quando era riuscito a farmi tagliare i ponti e a privarmi d'ogni possibilità d'assumere atteggiamenti protettivi nei suoi confronti, atteggiamenti che peraltro non m'ero mai sognato d'avere, smise di tenersi lontano da me. Attribuì questo mutamento all'influsso del signor di Charlus, che lo rendeva in effetti, per certi aspetti, meno limitato, più artista, mentre per altri, dove applicava alla lettera le formule eloquenti, menzogniere e d'altronde momentanee del maestro, lo rincretiniva ancora di più. Quanto aveva potuto dirgli Charlus fu, in effetti, la sola cosa che mi venne in mente. Come avrei potuto immaginare, allora, quel che mi dissero poi, e di cui non sono mai stato sicuro, già che tutte le affermazioni di André concernenti Albertine mi sono sempre parse, soprattutto in seguito, assai poco attendibili, alla luce del fatto che, come abbiamo già visto, non amava sinceramente la mia amica, della quale era gelosa, e che in ogni caso, se era vero, mi fu accuratamente nascosto da entrambi. Che Albertine conosceva benissimo Morel? Il nuovo atteggiamento che, a far tempo, all'incirca, dal licenziamento del cocchiere, Morel adottò nei miei confronti, mi diede modo di cambiare opinione sul suo conto. Circa il suo carattere, conservai la pessima idea ispiratami dalla bassezza di cui il giovane musicista m'aveva dato prova quando aveva avuto bisogno di me e che era stata seguita, non appena ottenuto il favore, da un disprezzo spinto sino a fingere di non vedermi. A questo bisognava aggiungere i suoi rapporti evidentemente venali col signor di Charlus e anche certi istinti di bestialità fine a se stessa, la cui mancata soddisfazione quando si verificava oppure le complicazioni che ne derivavano erano causa delle sue tristezze. Non era tuttavia il suo carattere, così uniformemente brutto, ed era pieno di contraddizioni. Assomigliava a un vecchio libro del Medioevo, zeppo di errori, di tradizioni assurde, di oscenità. Era straordinariamente composito. Da principio avevo creduto che la sua arte, nella quale ormai era davvero maestro, gli avesse conferito qualità superiori, al di là del virtuosismo dell'esecutore. Una volta che gli parlavo del mio desiderio di mettermi a lavorare, «Lavorate? Diventate illustre!» mi disse. «Di chi è?» gli chiesi. «Di Fontane, a Chateaubriand. conosceva anche una corrispondenza amorosa di Napoleone. Bene, pensai, ha una certa cultura letteraria. Ma quella frase, letta chissà dove, era probabilmente l'unica che egli conoscesse di tutta la letteratura antica e moderna, visto che me la ripeteva ogni sera. Un'altra che mi ripeteva ancora più spesso per ottenere che non parlassi di lui con nessuno era la seguente, da lui ritenuta ugualmente letteraria, mentre è a malapena francese o perlomeno non ha significato di sorta, se non forse per un domestico che vuol fare il misterioso. Diffidiamo dei diffidenti. In fondo, andando da questa stupida massima sino alla frase di Fontaine a Chateaubriand, si sarebbe percorsa tutta una parte, variegata ma meno contraddittoria di quanto non sembri, del carattere di Morel. Quel ragazzo, che per un po' di denaro avrebbe fatto qualsiasi cosa e senza rimorso, non forse senza una bizzarra contrarietà, capace di giungere sino alla sovreccitazione nervosa a cui mal converrebbe tuttavia il nome di rimorso, che avrebbe per il suo interesse fatto precipitare nel dolore o addirittura nel lutto famiglie intere, quel ragazzo che metteva il denaro al di sopra di ogni cosa e, senza parlare di bontà, al di sopra dei più naturali sentimenti di semplice umanità, quello stesso ragazzo metteva però al di sopra del denaro il suo diploma di primo premio al conservatorio e il fatto che nessuno potesse parlare male di lui al corso di flauto e di contrappunto. Così le sue peggiori collere, i più cupi e ingiustificabili fra i suoi accessi di cattivo umore, erano motivati da ciò che egli chiamava, generalizzando evidentemente qualche caso particolare che lo aveva visto imbattersi in persone malevole, l'impostura universale. Credeva di sfuggirvi, non parlando mai di nessuno, nascondendo il proprio gioco, diffidando di tutti. Per mia disgrazia, a causa di ciò che ne sarebbe risultato dopo il mio ritorno a Parigi, la carta della diffidenza non era stata giocata nei confronti dell'autista di Balbec, nel quale Morel aveva certo riconosciuto un suo simile, vale a dire, contrariamente alla sua massima, un diffidente, nel senso buono del termine, un diffidente che tace ostinatamente davanti alle persone oneste e fa subito lega con le canaglie. Gli sembrava, e non era affatto falso, che la diffidenza gli avrebbe sempre consentito di tirarsi d'impaccio, di scivolare, inafferrabile, attraverso le più rischiose avventure, senza che nessuno potesse venire, non dico a provare, ma nemmeno a insinuare qualcosa contro di lui, nell'istituto di Rue Bergère. Avrebbe lavorato, sarebbe diventato illustre. Un giorno, forse, si sarebbe ritrovato, con una rispettabilità intatta, presidente di commissione ai concorsi di violino di quel prestigioso conservatorio. Ma è ancora troppo logico, forse, per il cervello di Morel, voler estrarre le contraddizioni le une dalle altre. In realtà la sua indole era davvero come un foglio di carta ripiegato in tutti i sensi e così ripetutamente che è impossibile raccapezzarcisi. Sembrava possedere i principi più elevati e con una scrittura magnifica, guastata dai più grossolani errori d'ortografia, passava ore e ore a scrivere al fratello che s'era comportato male con le sorelle, che era il loro maggiore, il loro sostegno, alle sorelle che erano state scorrette nei suoi stessi confronti.